ad alta voce. Pier Francesco Favino legge Jack London. Addio Jack. Hawaii sono uno strano posto. Dal punto di vista sociale è tutto, come dire, sottosopra. Non che manchi la correttezza, anzi, forse ce n'è fin troppa. Eppure la situazione è molto confusa. Il gruppo più esclusivo è il clan dei missionari. Si apprende, in genere con una certa sorpresa, che alle Hawaii l'oscuro missionario, amante del martirio, siede a capotavola con la ricca aristocrazia locale. Ma è così. Gli umili cittadini della Nuova Inghilterra che giunsero sull'isola nella terza decade del XIX secolo erano mossi dal nobile proposito di insegnare ai Kanaka la vera religione, il culto dell'unico, autentico e inconfutabile Dio. E riuscirono così bene nel loro intento, come nell'opera di civilizzazione degli indigeni, che alla seconda e terza generazione la popolazione Kanaka era praticamente estinta. Questo fu il frutto del Vangelo. Mentre il frutto del seme gettato dai missionari, i loro figli e nipoti, fu il possesso delle isole, della terra, dei porti, delle cittadine e delle piantagioni di zucchero. Il missionario, che era venuto per donare il pane della vita, finì con lo spazzar via l'intero banchetto pagano. Tuttavia, non è questa la stranezza a cui accennavo all'inizio, solo che non si può parlare delle Hawaii senza parlare dei missionari. Prendete Jack Carsdale, per esempio. È di lui che volevo raccontarvi. Apparteneva al clan dei missionari, almeno dal lato materno. Il nonno era il vecchio Benjamin Carsdale, un commerciante yankee che ai suoi tempi aveva guadagnato il primo milione vendendo whisky dozzinale e gin di pessima qualità. C'è un altro fatto strano. All'epoca missionari e commercianti erano nemici mortali. Avevano interessi contrastanti. Ma i figli posero fine a quell'odio sposandosi tra di loro e spartendosi l'isola. La vita alle Hawaii è una canzone, così diceva Stoddard nella sua Hawaii Nei. La vita è musica di cui prolunga le note il destino, ogni isola è una strofa e tutte insieme sono una canzone. Aveva ragione. Laggiù le carni sono del colore dell'oro, le donne indigene sono giunoni maturate al sole e gli uomini apolli abbronzati. Cantano e danzano, tutti agghindati di fiori, e all'infuori del rigido clan dei missionari, i bianchi si abbandonano al clima e al sole, e per quanto impegnati siano, non perdono mai l'occasione di ballare e cantare e di portare fiori dietro le orecchie e fra i capelli. Jack Carsdale non faceva eccezione. Era uno degli uomini più impegnati che io abbia mai visto, plurimilionario, era il re dello zucchero e un pioniere della coltivazione di caucciù. Possedeva piantagioni di caffè e numerosi capi di bestiame ed era il promotore di 3/4 delle nuove imprese avviate nelle isole. Era un uomo mondano, che amava frequentare i circoli, appassionato di barche e di vele, uno scapolo, per giunta bello, di quelli per cui stravede ogni madre con una figlia in età da marito. Tra l'altro aveva completato i suoi studi a Yale e aveva la testa zeppa di fondamentali statistiche e dotte informazioni su Hawaii Nei, più di chiunque altro sull'isola. Svolgeva quantità immense di lavoro, eppure cantava e danzava e si metteva a fiore tra i capelli come un qualsiasi sfaccendato. Aveva fegato, e quando era ancora poco più che un ragazzo immaturo che si cimentava con le sue prime avventure in politica, s'era battuto 2 volte in duello, entrambe per ragioni politiche. In realtà, durante l'ultima rivoluzione, quando la dinastia indigena fu rovesciata, svolse un ruolo di un certo rilievo, dimostrando molto coraggio, e all'epoca non doveva avere più di 16 anni. Se sottolineo il fatto che non era un codardo, è perché possiate valutare quel che accadde in seguito. L'ho visto nel recinto per i cavalli del Haleakala Ranch domare un bruto di 4 anni che per 2 anni aveva tenuto testa al fior fiore dei cowboys di Fontensky. E devo dirvi un'altra cosa. È successo laggiù a Kona, o meglio lassù, perché la popolazione di Kona sdegna di vivere a meno di 3.000 metri d'altezza. Ci trovavamo tutti al bungalow del dottor Godhu, sull'Anai, una sorta di veranda. Discorrevo con Dottie Fairchild quando accadde. Dalle travi in alto le cadde tra i capelli un grosso 100 piedi lungo ben 15 centimetri. In seguito lo misurammo. Confesso che la vista di quell'animale ripugnante mi paralizzò. Non riuscivo a muovermi. La mente si rifiutava di lavorare. Lì, a 2 passi da me, quell'orrendo animale velenoso si contorceva tra i capelli della ragazza, minacciando di caderle da un momento all'altro sulle spalle scoperte. Eravamo appena usciti dalla sala da pranzo. «Cosa c'è?» chiese, accennando a portarsi la mano alla testa. «No!» gridai. «Ferma!» «Ma che c'è?» insisté lei, spaventata dalla paura che mi leggeva nello sguardo e sulle labbra tremanti. Il mio urlo richiamò l'attenzione di Kersdale. Guardò distrattamente dalla nostra parte e con una sola occhiata afferrò tutto. Si diresse verso di noi, ma senza alcuna fretta. «Non vi muovete, Dotti», disse in tono pacato. Non esitò un istante, eppure agì con calma, senza fare pasticci. «Permettete?» disse. Con una mano prese la sciarpa e gliela avvolse attorno alle spalle in modo che il 100 piedi non le cadesse nella scollatura. Con l'altra mano, la destra, afferrò quella bestia disgustosa il più vicino possibile alla testa e la tenne stretta fra il pollice e l'indice mentre la ritirava dai capelli. Fu uno spettacolo orribile ed eroico che mi accapponò la pelle. Il 100 piedi, 15 centimetri di zampe che si dimenavano, guizzava e si agitava convulsamente nella sua mano, con il corpo che si attorcigliava attorno alle dita e le zampe che si conficcavano nella pelle graffiandola mentre cercava di liberarsi. Lo punse 2 volte. Lo vidi con i miei occhi, benché lui assicurasse alle signore di non essersi fatto nulla mentre lasciava cadere la bestia a terra e la schiacciava sulla ghiaia. Ma 5 minuti dopo era nell'infermeria del dottor Godhu, che gli scarificava le ferite e gli iniettava permanganato di potassio. La mattina seguente Kersdale aveva un braccio grosso come un barile e ci vollero 3 settimane perché il gonfiore sparisse. Tutto questo non ha nulla a che vedere con la mia storia, ma non ho potuto evitare di parlarne per mostrare come Jack Kersdale fosse tutto tranne che un codardo. Fu la più grande dimostrazione di coraggio cui abbia mai assistito. Non batté ciglio, e nemmeno per un attimo il sorriso lasciò le sue labbra. Tuffò pollice e indice fra i capelli di Dottie Fairchild come se stesse pescando in una scatola di mandorle salate. Eppure, quello stesso uomo l'avrei visto in seguito paralizzato da una paura 1000 volte più terribile di quella che provai io quando vidi quella bestia disgustosa. Interessavo agli studi sulla lebbra e su questo argomento, come su qualsiasi altro che riguardasse le isole, Kersdale aveva conoscenze enciclopediche. In effetti la lebbra era uno dei suoi chiodi fissi, era un fervente sostenitore della colonia di Molokai, dove venivano segregati tutti i lebbrosi delle isole. Fra la popolazione indigena giravano molte chiacchiere ed esagerazioni fomentate dai demagoghi sulle crudeltà perpetrate a Molokai, dove uomini e donne, banditi dal consesso degli amici e della famiglia, erano costretti a vivere in perpetua prigionia fino alla morte. All'ingresso di Molokai si leggeva la scritta: «Lasciate ogni speranza». «Le dico che là sono felici», insisteva Kersdale. «Stanno infinitamente meglio dei loro parenti e amici che non hanno malattie. Gli orrori di Molokai sono tutte fandonie. Le garantisco che in qualsiasi ospedale o nelle periferie di una qualunque metropoli si vedono orrori 1000 volte peggiori. I morti viventi, le creature che una volta erano uomini, sciocchezze. Dovrebbe vedere quei morti viventi organizzare delle corse di cavalli il 4 luglio. Alcuni posseggono una barca, uno ha una lancia a gasolina, non hanno niente da fare se non divertirsi. Cibo, alloggio, abiti, assistenza medica, c'è tutto. Sono i guardiani del territorio, hanno un clima molto migliore che a Honolulu e il paesaggio è magnifico. Non mi dispiacerebbe affatto se dovessi andare laggiù per il resto dei miei giorni. È un posto incantevole. Così parlava Kersden dell'idilliaca vita dei lebbrosi. Non temeva la lebbra. Almeno così diceva e sosteneva che non c'era una probabilità su 1 milione di contrarre la malattia, per lui come per qualsiasi altro bianco, anche se mi confessò in seguito che un suo ex compagno di scuola, Alfred Starcher, l'aveva presa, era andato a Molokai e vi era morto. Sa, spiegava Kersden, un tempo non esisteva un test affidabile per la lebbra. Bastava un qualunque sintomo insolito o anormale per essere spediti a Molokai. Il risultato fu che vi finirono decine di persone che non erano più lebbrose di lei o di me, ma oggi non si commettono più simili sbagli. I test del Ministero della Sanità sono infallibili. La cosa buffa è che quando furono scoperti vennero applicati subito a Molokai e si trovò un certo numero di soggetti che non avevano la malattia. Furono immediatamente trasferiti. Crede che fossero felici di andarsene? Piansero più di quando avevano lasciato Honolulu per recarsi alla colonia. Alcuni si rifiutarono di partire e fu necessario costringerli con la forza. Uno sposò addirittura una lebbrosa all'ultimo stadio e in seguito scrisse patetiche lettere al Ministero della Sanità protestando contro la sua espulsione, affermando che nessuno sapeva prendersi cura della povera moglie come lui. «E qual è questo test infallibile?» domandai. «L'esame batteriologico». Non c'è da sbagliare. Il dottor Hervey, che è il nostro specialista, sapete, fu il primo ad applicarlo qui. È un vero mago. Conosce la lebbra più di qualsiasi altra persona al mondo e se mai si troverà una cura sarà lui a scoprirla. Quanto all'esame è molto semplice. Sono riusciti a isolare il bacillus lepre e a studiarlo. Ora quando lo vedono al microscopio sono in grado di riconoscerlo. Tutto quel che c'è da fare è asportare un pezzetto di pelle al paziente sospetto e sottoporlo all'esame batteriologico. Anche un uomo senza alcun sintomo manifesto può essere pieno di bacilli della lebbra. Allora, osservai, per quel che sappiamo anche noi potremmo esserne infetti. Kersdale si strinse nelle spalle e si mise a ridere. Chi può dirlo? C'è un periodo di incubazione di 7 anni. Se ha qualche dubbio vada a trovare il dottor Hervey, le strapperà un pezzettino di pelle e in un batter d'occhio glielo dirà. In seguito mi presentò al dottor Hervey, che mi sommerse di montagne di rapporti del Ministero della Sanità e opuscoli sull'argomento, e mi condusse a Kalihi, il centro di raccolta di Honolulu, dove si effettuavano i test e si trattenevano i lebrosi in attesa della deportazione a Molokai. Questi trasferimenti avvenivano in genere una volta al mese. Dopo gli ultimi addii, i lebbrosi venivano caricati sul piccolo piroscafo Noeu e trasportati alla colonia. Pomeriggio, mentre scrivevo alcune lettere al circolo, Jack Kersdale venne a trovarmi. «Proprio lei cercavo», mi salutò. «Le mostrerò l'aspetto più triste di tutta questa storia». Il pianto dei lebbrosi era partenza per Molokai. «L'imbarco sul Noeu avverrà fra pochi minuti, ma la avverto, non si lasci commuovere troppo. Per quanto reale sia il loro dolore, di qui a un anno piangerebbero ancora di più se il Ministero della Sanità tentasse di allontanarli da Molokai». Abbiamo appena il tempo per un whisky e soda, ho la vettura qui fuori. Ci vogliono meno di 5 minuti per arrivare alla banchina. E così ci dirigemmo al molo, accovacciati per terra in mezzo a stuoie, coperte e bagagli di ogni genere. C'erano una 40 di infelici. Il Noeu era appena arrivato e si stava ormeggiando a una chiatta ancorata lungo la banchina. Un certo signor McVeigh, il soprintendente della colonia, dirigeva le operazioni di imbarco. Fui presentato a lui e al dottor George, uno dei medici del Ministero della Sanità, che avevo già visto a Kalihi. I lebbrosi avevano tutti un'aria afflitta. Avevano volti spaventosi, troppo spaventosi per descriverli. Ma qua e là notai delle persone dall'aspetto sano, senza alcun segno evidente della malattia. Fra gli altri, vidi una ragazzina bianca di non più di 12 anni, con gli occhi azzurri e i capelli dorati. Su una guancia, tuttavia, mostrava il gonfiore della lebbra. Quando feci notare quanto triste fosse la sua condizione di estranea in mezzo a tutti quei malati dalla pelle scura, il dottor George mi disse: «Oh, non so, per lei è un giorno felice, viene da Kauai. Il padre è un bruto, e ora che ha contratto la malattia va a raggiungere la madre alla colonia, la madre è lì da 3 anni, un caso gravissimo». «Non sempre si può giudicare dalle apparenze», spiegò il signor McVeigh. «Quell'uomo, per esempio, quel tipo grosso che sembra perfettamente sano e privo di problemi, ha scoperto per caso di avere una piaga ulcerante al piede e un'altra alla scapola. E ce ne sono altre, vedete la mano di quella ragazza, quella che fuma la sigaretta. Guardate le sue dita deformi. Quella è la forma indolore. Attacca il sistema nervoso. Potreste tranquillamente tagliarle le dita con un coltellaccio male affilato o sfregargliele su una grattugia, non proverebbe il minimo dolore». «Sì, ma quella donna laggiù», insistei, «non può avere nulla, non è possibile. È troppo bella e regale». «Un caso davvero triste», ammise McVeigh da sopra la spalla mentre si allontanava lungo la banchina con Kersdale. Era una donna stupenda, di puro sangue polinesiano. Da quel poco che sapevo della razza e dei suoi tipi, conclusi che discendeva da un'antica stirpe di capi. Non doveva avere più di 23 o 24 anni, il corpo era armonico e proporzionato e cominciava appena a mostrare l'abbondanza delle donne della sua razza. «È stato un colpo per tutti noi», intervenne il dottor George. «Si è presentata di sua spontanea volontà, nessuno sospettava nulla, ma in qualche modo aveva contratto il morbo. Siamo rimasti tutti sconvolti, glielo garantisco, ma abbiamo tenuto la stampa all'oscuro di tutto. Nessuno all'infuori di noi e della famiglia sa cosa le è successo. A chiunque lei chieda a Honolulu le risponderà che probabilmente è da qualche parte in Europa. È stata lei a pregarsi di non farne parola con nessuno, povera ragazza, è così orgogliosa». «Ma chi è?» domandai. «Da come ne parla deve essere senz'altro una donna in vista». «Ha mai sentito parlare di Lucy Mokunui?» «Lucy Mokunui», ripetei, turbato da una sensazione di vaga familiarità. Scossi il capo. «Mi pare di conoscere il nome, ma non riesco a ricordare». «Ma come? Non conosce Lucy Mokunui? L'usignolo delle Hawaii?» «Ma certo, naturalmente, lei è un malachini, e qui da poco non può conoscerla. Ebbene, Lucy Mokunui era la donna più amata di Honolulu, anzi, di tutte le Hawaii». «Avete detto era?» lo interruppi. «Esatto, ormai è finita». Si strinse nelle spalle e continuò in tono compassionevole. «Almeno una dozzina di haoles, vi chiedo scusa, di uomini bianchi, hanno perso la testa per lei, senza contare i pesci piccoli. Gli haoles di cui parlo erano persone di prestigio, avevano una posizione. Avrebbe potuto sposare il figlio del primo giudice se avesse voluto. Vi sembra bella, vero? Ma dovreste sentirla cantare, la migliore cantante indigena di Hawaii Nei. La sua gola è argento puro e oro del sole. Noi l'adoravamo, ha fatto una prima tournée in America con la Royal Hawaiian Band. Poi ne ha fatte altre due per proprio conto, dando dei concerti». «Ah», esclamai, «ora ricordo. 2 anni fa l'ho vista esibirsi al Boston Symphony. Così lei, adesso la riconosco». Sentivo oppresso da una grande tristezza. La vita era una cosa futile, per non dire peggio. Appena 2 anni e quella splendida creatura, all'apice del suo spettacolare successo, si ritrovava in mezzo a un gruppo di lebbrosi che attendevano la deportazione per Molokai. Mi tornarono in mente i versi di Henley. il vecchio vagabondo mette in mostra le sue povere vecchie piaghe. La vita è, io penso, un orrore e una vergogna. Non osavo pensare al futuro. Se all'ultimo con lui era toccata quella fine orrenda, quale sorte poteva essere mai riservata a me o a chiunque altro? Sapevo che nella vita siamo sempre circondati dalla morte, ma ritrovarsi in mezzo a quei morti viventi, morire e non essere ancora morti, essere una di quelle creature amorfe che una volta erano uomini, sì, e donne come l'ultimo con lui, la personificazione di tutte le grazie polinesiane, un artista per di più, la più amata delle donne. Il mio turbamento mi si doveva leggere in volto perché il dottor George si affrettò ad assicurarmi che erano molto felici nella colonia. Era tutto troppo incredibilmente mostruoso. Non potevo sopportare la vista di quella donna. A breve distanza, dietro una corda tesa sorvegliata da un poliziotto, c'erano i parenti e gli amici dei lebbrosi. Di più non potevano avvicinarsi. Non erano consentiti né abbracci né baci d'addio. Si chiamavano l'un l'altro, gli ultimi messaggi, le ultime parole d'amore, le ultime raccomandazioni, e quelli dietro la corda avevano sguardi terribilmente intensi. Era l'ultima volta che vedevano il viso dei loro cari. Quelli erano i morti viventi, e la nave funeraria se li portava via per condurli al campo santo di Molokai. Il dottor George fece un segno. Gli infelici si levarono in piedi a fatica e sotto il peso dei bagagli si avviarono barcollanti verso la chiatta per montare sul piroscafo. Assomigliava a un corteo funebre. Gemiti e pianti si levarono subito dalla folla dietro la corda. Era una cosa da far gelare il sangue, da spezzare il cuore. Non avevo mai udito niente del genere e spero di non udirlo mai più. Kesdale e McVeigh si trovavano ancora all'altra estremità della banchina, impegnati in un'accesa discussione. Parlavano di politica, naturalmente, erano entrambi fanatici di quell'argomento. Quando l'ultimo con lui mi passò davanti, le lanciai un'occhiata furtiva. Era veramente bella. Persino per i nostri canoni, uno di quei rari fiori che sbocciano solo una volta per generazioni e generazioni. E fra tutte le donne, proprio lei era destinata a Molokai. Avanzò come una regina, passò sulla chiatta e salì a bordo dirigendosi a poppa sul ponte aperto dove i lebbrosi si affollavano al parapetto per salutare, tra gemiti e pianti, i loro cari a terra. E il Nuo'u si staccò dal molo, i lamenti crebbero. Quanto dolore, quanta disperazione. Stavo giusto pensando che non avrei mai più assistito alla partenza del Nuo'u quando tornarono McVeigh e Kesdale. Gli occhi del mio amico brillavano e le sue labbra non riuscivano a nascondere un sorriso di piacere. Evidentemente la discussione era stata soddisfacente, la corda era stata rimossa, i familiari in lacrime si affollavano sulla banchina attorno a noi. «Quella è la madre», mormorò il dottor George indicando una vecchia accanto a me che si dondolava avanti e indietro e fissava il parapetto del piroscafo con gli occhi accecati dalle lacrime. Notai che anche l'ultimo con noi piangeva. Poi però, all'improvviso si fermò e guardò Kesdale. Tese le braccia in avanti nella stessa maniera adorabile e sensuale di Olga Nedersol quando abbraccia il suo pubblico e gridò: «Addio, Jack! Addio!» Kesdale udì il grido e si voltò a guardare. Mai uomo fu assalito da un più grande terrore. Vacillò, pallido fino alla radice dei capelli, e parve accartocciarsi nei suoi panni. Sollevò le mani e disse gemendo: «Mio Dio! Mio Dio!» Poi si dominò con un grande sforzo. «Addio! Lucy, addio!» gridò. Rimase lì sulla banchina agitando le mani verso di lei in segno di saluto finché il Nuo'u fu lontano e i volti allineati al parapetto divennero vaghi e indistinti. «Credevo che lo sapesse», disse McVeigh, che lo guardava con curiosità. «Proprio lei fra tutti avrebbe dovuto sapere, pensavo fosse qui per questo». «Ora lo so», rispose Kesdale con tono infinitamente grave. «Dov'è la carrozza?» Si avviò in fretta, quasi correndo verso la vettura. Fui costretto ad affrettare anch'io il passo per stargli dietro. Dal dottor Hervey ordinò al cocchiere il più in fretta possibile. Sprofondò nel sedile, senza più fiato. Si era fatto ancora più pallido. Aveva le labbra serrate Il sudore gli copriva la fronte e il labbro superiore sembrava in preda ad un'angoscia terribile. «Per l'amor di Dio, Martin, faccia correre quei cavalli!» proruppe a un tratto. «Usi quello, Frusta! Mi ha sentito, Frusti, quei cavalli!» «Ma non si può, signore, è proibito!» protestò il cocchiere. «Le dico di sì, invece!» rispose Kerdale. «Pagherò io la multa e penserò anche alla polizia. Avanti, li Frusti, così, più veloce, più veloce!» «E io non sapevo nulla!» mormorò, ricadendo sul sedile e asciugandosi con mani tremanti il sudore della fronte. La carrozza sobbalzava, ondeggiava e agli angoli delle strade voltava a una velocità tale da rendere impossibile la conversazione. Del resto, non c'era niente da dire. Sentivo solo Kerdale che continuava a mormorare. «Non sapevo nulla. Non sapevo nulla.» Francesco Favino ha letto Jack London, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio, ad alta voce @rai.it.